voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Che cos'è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e velocità d'esecuzione. Bello, ciuccio, bello, vieni, vieni, ciuccio. Thank you. Esattamente come le due prime settimane di Eclettica sono state intercalate da spezzoni da un solo film, così anche le successive due, quindi anche quelle in corso, sono intercalate da spezzoni da un solo film. Amici miei, il primo, quello storico, avete sentito già uno spezzone quest'oggi, uno anche nella prima parte di Eclettica, magari quest'oggi ne capiterà anche qualcun altro. E poi è arrivata la musica, la grande musica. Sono fortunato ad avere già un disco che emozioni così tanto perlomeno me stesso, e spero anche tanti fra voi a inizio di stagione. L'anno scorso l'avevo anche contati alla fine in lista nera quanti erano stati i dischi che mi avevano emozionato, ed erano meno di 5 di sicuro. Ora non me li ricordo con precisione ed erano meno di 5. Averne già uno inizio di questa nuova stagione direi che promette bene. Progress Reform, disco d'esordio dopo due soli singoli da parte degli I Like Trains, che hanno scelto questo nome dopo essersi incontrati nella stazione di Leeds. Esce per la francese Tally Tress ed è uscito da poche settimane nel mese di settembre. Invece in tarda primavera era uscito il secondo album strumentale di Robin Guthrie, ex chitarrista dei Cocteau Twins, e quel disco viene ora seguito da un EP in edizione limitata sempre per la Rocket Girl, che contiene 4 tracce, si intitola Everlasting, e noi ci ascoltiamo la traccia numero 4, anch'essa si intitola Everlasting, lui è Robin Guthrie. Thank you. Camillo è il titolo italianissimo, come Stella è il titolo italianissimo dell'album invece altrettanto internazionale degli UZ dalla Sicilia, ancora con l'aiuto di Steve Albini, che sono per Touch and Go, un bel disco, già mi sono espresso in questi termini, uscito da qualche settimana e dal quale ci siamo ascoltati la traccia già citata. Giulio Caperdoni in vostra compagnia, disponibile all'indirizzo giulio@radiorockfm.com, lì si trova la lista nera, lì si trova la possibilità di vincere i biglietti per i concerti prossimi, entrambi allo Zero Music Club di Azzano San Paolo il 13 e il 20, rispettivamente Bugo e Marta sui tubi. Ora vediamo di proseguire con la musica di Eclettica, ma la musica di Eclettica del passato, del lontano passato nel caso in questione. Avete capito che è arrivato il momento di Profumo di Eclettica, lo spazio che permette di andare a ripescare nelle vecchie playlist di Eclettica per far sentire a chi Eclettica a quei tempi non ascoltava quali erano i brani che più le hanno caratterizzate e magari per far cogliere da un certo senso di nostalgia invece chi quelle trasmissioni le ascoltava, e quindi si può ricordare degli ascolti passati oltre che dell'età che se n'è che se n'è andata. Qui andiamo indietro al 1996, anno di uscita di Second Elevator di Hugo Race, dal quale ci ascoltiamo Angel Dust. Profumo di Eclettica. We'll be right back. hurt you when your heart is true. The only truth that ever lived existed inside you. So don't be surprised how it shakes and how it sucks. You're above it all, baby. You're pure and just. Buonasera, eccoci qua. Buonasera. Buonasera. Grazie di essere venuti. Rossella, posso presentarti? Presentarmi Rossella? Rossella, come va? Stupenda serata. Melandri. Ti trovo in grande forma. Molto piacere. Senti, scusa, posso presentarti l'architetto Melandri? Molto lieto, signora. Come dottor Perozzi, giornalista. I miei omaggi. Sì, mi pare. Conte Macetti. Signora, la super cazzo. E il comandante Ricchi. Piacere. Eravamo alla NATO e temevamo di non poter venire, ma per fortuna ci siamo liberati ed eccoci qua. Certo, certo, avete fatto molto bene. Volete bere qualcosa? Grazie. Grazie. Ci pensi tu, Mario, per favore? No, per carità, sappiamo la strada. Facciamo noi, eh? Il taglio e cucito comprensivo di orlatura da parte di Dosh. Lui viene da Minneapolis e usa la sua macchina da cucire elettronica per gli album che pubblica per la Anticon. The Lost Take è il titolo della sua ultimissima prova, che ci ha permesso di ascoltare questo brano dal titolo, eccolo qua, ero distratto per questo perché non riuscivo a trovare la lista dei titoli e come tutti i brani nuovi ancora non li conosco a memoria. Circles and Squares, questo è il titolo del brano da parte di Dosh da Minneapolis. Ora invece ci trasferiamo a Londra, anche se il leader della formazione in questione in effetti di origine è canadese. Loro si chiamano Cathead, questa è Cowboy e chiude quella che è la seconda parte di Eclettica di questa settimana. Fine della seconda parte.